Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata anche da parte mia, gentili ascoltatori, ben ritrovati, buon inizio settimana, nessun luogo lontano ancora, la grande attualità internazionale sarà in primo piano. Il saluto vi viene naturalmente anche da Mira Lucchetti e Massimo Brugnone che sono in redazione con me e da Roberto Scaltritti alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi, per porre domande o fare commenti, la mail nessunluogo@radio24.it, via sms al 349-238-6666, poi ci trovate su Facebook nessunluogolontano-radio24 e poi su Twitter nessunluogo24. E noi per cominciare quest'oggi andiamo subito al Cairo. It was a bold and surprising move by President Morsi, sending a message after a long power battle with the military. In a move that stunned many, Egyptian President Mohamed Morsi ordered that Field Marshal Tantawi and Chief of Armed Forces Staff Sami Anan retire. Che cosa sta accadendo in Egitto? Il lungo braccio di ferro, il duopolio di potere fra vertici militari e Mohamed Morsi è giunto probabilmente al suo momento topico e forse alla sua risoluzione. Il presidente egiziano, esponente dei Fratelli Musulmani, ha silurato niente meno che Mohamed Hussein Tantawi. Nei giorni scorsi, dopo gli episodi del Sinai di cui vi avevamo dato conto, quell'attacco terroristico, anche il capo dell'intelligence, il governatore del Nord, ma anche il numero uno di aviazione e marina, e questa è notizia proprio delle ultime ore. Cerchiamo di capirne di più con Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente, autrice di Arabi Invisibili. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto la prima domanda che vorrei farti è questa: quanto è inaspettata questa mossa di Morsi, o quanto invece ci si doveva attendere una fine a questa situazione un po' bifronte, no? Di questi due grandi poteri che in Egitto si trovavano l'uno di fronte all'altro, da una parte i Fratelli Musulmani vincitori delle elezioni e dall'altro l'apparato militare che da sempre storicamente in Egitto ha un forte potere. Ma io la metterei così: è una mossa inaspettata, ma ci si doveva attendere un cambiamento di questo genere. La mossa inaspettata è il fatto di aver silurato forse il militare più importante d'Egitto, cioè Tantawi, e così come Sami Anan, che è il numero due, l'altra personalità del mondo militare, che era poi veramente importante soprattutto nel vecchio regime. Ecco Paolo, oggi sulla stampa scrivi che la crisi del Sinai è stata forse una delle molle che ha spinto Morsi a questa mossa eclatante, e poi però c'è questo paradosso che alla fine forse il neopresidente egiziano è riuscito a fare quello che la rivoluzione di Piazza Tahrir non era riuscita a fare, cioè a contrastare e a limitare il potere dei militari. Forse è un po' un paradosso questo, no? Da una parte è un paradosso, dall'altra questa è una mossa preparata da tempo, dicono anche gli esperti, cioè non è che Morsi abbia deciso questa rottura del duopolio ieri o l'altro ieri. Ha usato quello che è successo nel Sinai, cioè l'attentato in cui sono stati uccisi 16 soldati, come una sorta non proprio di alibi ma come miccia per poter poi portare a termine il braccio di ferro in questo modo in questi giorni. Magari sarebbe successo fra un mese, due. Diciamo che il Sinai è stato per Morsi uno strumento importante. Beh, da dire però che quello che è successo è secondo gli esperti, ma anche secondo me, preparato da tempo, perché non è solamente l'uscita di scena di Tantawi la cosa importante, o l'uscita di scena di Sami Anan, che peraltro ha avuto contatti con il Pentagono negli scorsi anni molto frequenti. Quello che è importante è che ci sia soprattutto nel mondo militare un nuovo equilibrio, e questo equilibrio lo stiamo vedendo proprio in queste ore, cioè da ieri. Probabilmente esistono quadri e soprattutto una nuova generazione di alti ufficiali delle forze armate egiziane che premono poi per gestire quello che non è solamente un esercito ma un intero settore produttivo, e ricordiamo che sia Tantawi sia Anan appartengono non solo alla vecchia generazione del regime ma proprio a una gerontocrazia militare dietro alla quale probabilmente c'è chi scalpita e vorrebbe cominciare ad avere il potere che fino ad ora non ha avuto. E quindi punte di diamante, diciamo, che si fronteggiano, ma dietro c'è tutto un mondo, c'è tutto questo apparato militare che con Paolo Caridi stiamo cercando di comprendere meglio. Però nel frattempo, siccome le reazioni dei quotidiani egiziani non si fanno attendere, volevo commentarli un po' con te. Ma innanzitutto c'è ad esempio il quotidiano che è governativo Al-Akhbar, che normalmente in realtà si fa portavoce, insomma, dei militari, che dice la mossa rivoluzionaria. Morsi ha messo fine al ruolo politico delle forze armate, titola invece Al-Masri Al-Yum, mentre il quotidiano Tahrir parla di rivoluzione del presidente sui militari. E poi infine Al-Watan, che dice, parla addirittura di dittatura. C'è questo rischio, secondo te? Cioè, se viene a cadere questo controbilanciamento del potere militare, i Fratelli Musulmani hanno via libera e quindi veramente, come alcuni quotidiani scrivono, si va verso una nuova dittatura? Ma allora, prima di tutto, secondo me, bisogna mettere le cose al suo posto. Non è che i militari esprimessero una democrazia. Cioè, non è che noi possiamo parlare di dittatura dei Fratelli Musulmani senza porci il problema se prima dell'elezione democratica di Mohamed Morsi non ci fosse invece una transizione autoritaria gestita dai militari. Questo secondo me è fondamentale, perché altrimenti si pensa che la dittatura sia da una parte sola. La seconda cosa, è vero che questo è l'atto più rivoluzionario dal 25 gennaio del 2011, però è una rivoluzione calata dall'alto, e qui sta il rischio autoritario, nel senso che Morsi è stato Morsi, e quindi la presidenza, e quindi con il sostegno dei Fratelli Musulmani, a decidere di rompere questo braccio di ferro da una parte, ma anche questo gioco al gatto e al topo con i militari. Nello stesso tempo Morsi ha fatto una cosa che io avevo accennato anche nell'articolo sulla Stampa, che lo difende sul fianco dei rivoluzionari, e cioè è vero che ha decapitato i vertici militari, è anche vero che al suo fianco come vicepresidente ha messo un giudice molto rispettato non solo dalla rivoluzione ma da tutta l'opposizione, come Mahmoud Mekki, che si era opposto a Mubarak in tempi non sospetti, cioè nel 2006, quando la NM locale, il club dei giudici, era sceso addirittura in piazza contro Mubarak. E quindi da un lato Morsi pensa di tutelarsi, diciamo così, alla sua sinistra, per così dire, sul fronte rivoluzionario, designando peraltro il vicepresidente, una figura che per noi può sembrare anche di contorno o di dettaglio, ma nella storia egiziana avere un vicepresidente è un'altra rivoluzione nella rivoluzione, perché per 30 anni Mubarak, lui stesso vicepresidente di Sadat, si era rifiutato di designare il suo numero due, come dire: io non ho successori, sì, rimango solo io al potere, non c'è nessuno che lo può prendere al posto mio. In questo Morsi fa a suo modo una rivoluzione nella rivoluzione. 349-238-6666, gentili ascoltatori, per porre domande a Paola Caridi, che oggi ci sta aiutando a capire meglio la portata di questa svolta politica egiziana. Paola, le forze laiche in questo momento sembrano un po' in secondo piano, nel senso che tutta la partita a scacchi viene giocata tra appunto i militari, i Fratelli Musulmani, e vabbè, sullo sfondo rimangono i salafiti in qualche modo estromessi da tutti i giochi, però le forze laiche sembrano latitare enormemente. No, secondo me non latitano. C'è stato un grande errore commesso dalle forze laiche e che stanno pagando ora, e cioè, semplificando, Piazza Tahrir purtroppo ha espresso 3 candidati alla presidenza. Se Piazza Tahrir avesse espresso un solo candidato avrebbe vinto le elezioni presidenziali, perché se noi guardiamo ai numeri, a quello che è stato espresso dalle urne, Morsi ha vinto perché i 3 candidati espressi dalla piazza erano divisi, ma la somma dei loro consensi sarebbe stata più alta di quella che invece ha ottenuto Morsi, e quindi secondo me il fronte laico sta ora riflettendo sui propri errori e forse tentando anche di unire le forze. Peraltro una delle prime reazioni che ci sono state dopo la mossa di Morsi ieri è stata quella dell'antagonista più importante sul fronte islamista, cioè Abdelmonem Abul Futuh, che è stato uno dei vecchi dirigenti dei Fratelli Musulmani, poi espulso proprio dopo la rivoluzione, che è una delle espressioni della piazza. Abul Futuh ha espresso una nota positiva nei confronti della mossa di Morsi, e quindi cosa vuol dire? Che poi non è detto che tutto il fronte di Piazza Tahrir, che non è solo un fronte laico, ma al suo interno anche l'Islam politico, non è detto che tutta Piazza Tahrir sia contro la mossa di Morsi. Molti ne vedono i pericoli, e cioè il pericolo di una svolta autoritaria civile rispetto a quella che si stava profilando, cioè una svolta autoritaria militare. Nello stesso tempo stanno probabilmente pensando alle contromisure, e cioè a come bilanciare quello che Morsi sta facendo, e assieme a Morsi parliamo anche di un primo ministro che è espressione del mondo islamista e del Parlamento che è in maggioranza islamista. Quindi il fronte da una parte laico, ma non solo laico, il fronte rivoluzionario sta pensando probabilmente a come poter gestire quest'altro capitolo della transizione. Ecco, un ruolo importante, ne hai fatto cenno prima, sono i rapporti che esponenti militari, alti dirigenti militari avevano con gli Stati Uniti, ma non solo, anche con Israele, tant'è che è notizia di un'ansa battuta proprio adesso, le reazioni in Israele, c'è inquietudine dopo la decisione di Morsi, il capo di Stato Maggiore riferisce, una fonte anonima che non ha voluto rivelare chi è, dice: è prematuro fare valutazioni, stiamo osservando quello che accade con qualche inquietudine, perché insomma si fa riferimento anche alla cooperazione militare che negli ultimi anni comunque era più che avviata. Da questo punto di vista, cioè dalle ripercussioni sulla politica estera egiziana, che cosa potremmo dire, Paola? Ma innanzitutto bisogna dire una cosa: sia i Fratelli Musulmani egiziani sia Israele sono pragmatici, ovvio ognuno in modo diverso. I Fratelli Musulmani egiziani non credo proprio che vorranno di molto peggiorare, soprattutto in questo momento in cui i problemi interni sono molto più importanti, vorranno peggiorare il rapporto con Israele. Magari lo lasceranno da canto e se ne occuperanno in seguito, rivedendo per esempio anche gli accordi di Camp David, ma in una fase successiva. Israele certo non può pensare di non avere rapporti pragmatici con il vicino più importante, forse con il paese più importante dell'intero mondo arabo. Perché? Perché avere un rapporto virgolette sereno o almeno non belligerante con l'Egitto è fondamentale per Israele, perché l'unico paese che potrebbe attaccare Israele è l'Egitto nel mondo arabo, e quindi c'è bisogno di conservare questa sorta di equilibrio freddo lungo il confine. L'errore qual è stato, soprattutto negli ultimi giorni? La notizia per esempio dello sconfinamento di soldati israeliani in territorio egiziano nel Sinai per arrestare dei migranti, quindi non certo dei terroristi, ma dei briganti, dei migranti africani, sì. Scusate, quasi lapsus. Questo è un gesto che per il nazionalismo egiziano, non solo quello islamista, ma anche quello laico, anzi soprattutto quello laico, è una cosa che non può essere digerita, cioè uno sconfinamento dentro il territorio egiziano, un territorio così delicato come quello del Sinai, non potrebbe essere assolutamente mai accettato dall'opinione pubblica egiziana. E quindi in questo Morsi e chi ha pensato a questa strategia di cambiamento all'interno del mondo militare ha avuto un buon gioco, perché ha sfruttato quello che secondo me è stato un errore non solo mediatico ma proprio nei rapporti fra i militari. Vedremo nel futuro che cosa succederà, ma certo è vero che Israele trovava nei militari egiziani non più istruiti dentro le accademie britanniche, come succedeva quando in Egitto c'era il re, ma nelle accademie americane trovava delle persone pronte ad ascoltare, lo stesso nei servizi segreti. Adesso vengono a mancare non solo Omar Suleiman, grande capo dei servizi segreti egiziano, che è morto di malattia poche settimane fa, ma anche quello che era il suo numero due e che è stato giubilato da Morsi pochi giorni fa. Grazie Paola Caridi per essere stata con noi e averci aiutato a capire un po' meglio la portata di questa mossa egiziana di Morsi. Buona giornata, buon lavoro. Anche a voi. E prima dell'informazione finanziaria, due sms al volo. C'è un ascoltatore che fra l'altro ex militare dei reparti speciali, immagino, c'è una sillabazione errata della Marina, dice: conosco bene i militari egiziani, l'esautorazione non verrà tollerata appunto dai militari stessi e vedrete. E poi un altro ascoltatore, sempre 349-238-6666, che esprime la preoccupazione dicendo: non è che sta nascendo un altro Iran. Continuate a scriverci, ma su tutt'altro tema, perché dopo l'informazione finanziaria andremo in Turchia. Nessun luogo è lontano. Dobbiamo andare in Turchia, ve lo accennavo, perché c'è tanta carne al fuoco, weekend estremamente ricco di notizie, non sempre troppo buone. Adesso cercheremo di capire di più con Marta Ottaviani da Istanbul, ma prima c'è un altro sms al 349-238-6666 che chiede appunto di eventuali altre reazioni estere alla decapitazione dei vertici storici militari egiziani. Abbiamo dato conto delle preoccupazioni da parte di alcuni esponenti del governo israeliano, appena vi saranno altre reazioni ve le comunicheremo da qui alle 14, ma vi dicevo, andiamo a Istanbul e do il mio buongiorno a Marta Ottaviani. Marta, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci, allora, che aria tira a Istanbul? Weekend intenso, mi sembra di poter dire, è successo un po' di tutto, si è mosso il PKK e non solo, si è mossa la Clinton e non solo. Da cosa partiamo? Direi dal PKK, Marta. Sì, direi proprio dal PKK, perché a differenza vis-à-vis di Hillary Clinton, quello del PKK è veramente un gesto senza precedenti. Ieri nel tardo pomeriggio Hüseyin Aygün, un deputato del GEP, quindi del Partito Repubblicano di stampo laico, principale voce dell'opposizione, è stato sequestrato poco fuori da Tunceli. Ricordiamo, Tunceli è una città nel sud-est del paese a maggioranza curda ed è anche la città da cui proviene l'attuale leader dell'opposizione, che è Kılıçdaroğlu, anche lui di origine curda, anche se in maniera molto lontana. Aygün è stato sequestrato mentre tornava da un comizio che aveva annunciato su Facebook. La sua macchina è stata bloccata da un'altra vettura dalla quale sono uscite due persone in borghese ma armate e lo hanno prelevato dicendo di essere due guerrieri del PKK che lo avrebbero sequestrato per qualche giorno. Aygün ha provato a opporre resistenze ma è stato minacciato, quindi alla fine ha seguito i suoi sequestratori. Alla scena hanno assistito l'assistente di Aygün e un giornalista che poi ha raccontato alla stampa turca l'esatta dinamica del sequestro. Ecco, questa la dinamica appunto di questo eclatante salto di qualità, salto anche di visibilità del PKK, perché a pochi giorni da un attacco che era stato compiuto a militari turchi nell'ovest del paese, e già quello non è che accada proprio tanto di frequente. E qui evidentemente si cerca una ribalta politica, insomma, si cerca una visibilità differente, e mi rendo conto che a poche ore dal rapimento è difficile, come dire, leggerlo in chiave politica, però che speculazioni potremmo fare? Perché proprio in questo momento un salto di visibilità così alto? È un momento molto pericoloso per la Turchia. Vorrei ricordare che nelle scorse due settimane a Shemdinli, al confine col nord Iraq, dove ci sono le cellule più pericolose del PKK, è andata in scena una vera e propria battaglia tra l'esercito turco e i separatisti curdi, battaglia che è praticamente passata inosservata dalla stampa turca ufficiale, ma che era stata una battaglia molto importante perché il PKK per la prima volta ha cercato di mettere sotto controllo l'intero territorio di Shemdinli, contrastato con successo alle forze turche. Vorrei ricordare che il sequestro di Aygün arriva in un momento in cui la Turchia è particolarmente esposta al rischio curdo, anche a causa della situazione in Siria. Nel nord della Siria molte città sono sotto il controllo del PYD, il braccio siriano del PKK, e il timore del governo islamico moderato guidato da Recep Tayyip Erdogan è che se si verrà a formare una situazione come quella di irachena, quindi un'autonomia curda più o meno riconosciuta, allora per la Turchia sarà veramente un punto di non ritorno e un raddoppiamento del rischio terroristico. Proprio di questo il ministro degli esteri della Mezzaluna, Ahmet Davutoğlu, e il premier Erdogan, logicamente, hanno parlato con Hillary Clinton sabato durante la sua visita in Turchia. Ecco Marta, ascoltiamo allora insieme la Clinton brevemente. We share Turkey's determination that Syria must not become a haven for PKK terrorists, whether now or after the departure of the Assad regime. Now, I think it's important to state that we have a difficult road ahead of us, but the real difficulty is for the Syrian people. Ecco, lei Clinton ha detto, insomma, noi condividiamo il timore che dopo la dipartita di Assad, che oramai si dà per scontata, la Siria diventi il paradiso per i terroristi del PKK. Fra l'altro, con la Clinton, con i vertici turchi, si è parlato di vari punti. Fra l'altro, sulla questione sul fronte siriano, si è anche accennato alla famosa no-fly zone che viene invocata ormai da settimane da più parti. Sì, te lo confermo. Hillary Clinton si è detta moderatamente disposta ad attuarla. La Turchia ha rilanciato non solo con la no-fly zone, ma anche con la buffer zone, quindi una zona cuscinetto di 20 km di profondità in territorio siriano presidiata dalle forze turche. Si tratterebbe per Ankara di un passaggio molto importante, perché la metterebbe relativamente al sicuro, appunto al riparo da attacchi da parte del PKK sul modello di quelli che già provengono dal nord Iraq. Ricordiamo che negli ultimi 3 anni, e sono dati proprio degli Stati Uniti, il rischio terroristico in Turchia è più che raddoppiato. Gli attacchi del PKK, le incursioni dal nord Iraq, dove il PKK vive in regime di sostanziale impunità, sono assolutamente raddoppiate, e la Turchia ha paura che si venga a determinare una situazione molto simile anche in Siria. Molti quotidiani turchi nei giorni scorsi hanno detto che le città sotto il controllo curdo sono legate più o meno direttamente a tribù Peshmerga, legate a loro volta a Massoud Barzani, che è il leader dell'autorità nazionale curda, autonoma curda del nord Iraq. Ecco Marta, come l'opinione pubblica turca sta seguendo le vicende siriane e questo fattore K, o meglio fattore PKK? Quanto timore c'è, quanta paura c'è da un lato di questa incognita autonomista violenta, dall'altro di profughi siriani? Fra l'altro si annunciano, notizie di pochissime ore fa, in Grecia, quindi un paese dopo la Turchia, altri 15.000 profughi. Quindi da un lato c'è un'emergenza umanitaria e dall'altro una minaccia interna. L'opinione pubblica turca come sta vivendo questo agosto bollente? Beh, in queste ore la Turchia è completamente sotto shock per il rapimento di Aygün, perché è veramente un gesto senza precedenti, inatteso da gran parte della popolazione, anche se è interessante la dichiarazione che ha fatto il premier Erdogan, dove si diceva è un gesto con cui il PKK ha fatto vedere che tipo di organizzazione stia diventando, ce lo aspettavamo. Segno che comunque l'esecutivo islamico moderato aveva in qualche modo messo in preventivo un'escalation del genere. Per la Turchia è un'estate veramente bollente e con i nervi tesi. Ankara è molto preoccupata per questa situazione, anche perché lei per prima non sa se riuscirà a contrastare militarmente un rischio terroristico raddoppiato come quello che si potrebbe venire a verificare se il PKK attaccasse sia dal nord Iraq sia dalla Siria. C'è sul confine una situazione di grandissima emergenza anche per quanto riguarda i profughi. Siamo a oltre 50.000 persone ospitate nei campi turchi, potrebbero diventare 100.000 entro la fine d'agosto, e anche all'interno dei campi turchi molto spesso vengono a verificarsi veri e propri scontri tra le componenti che sono usciti sui giornali, e infatti la Turchia è stata anche costretta ad attuare, per così dire, un giro di vite all'interno dei campi stessi con maggiore sorveglianza da parte dell'esercito. Si tratta veramente per la Turchia una situazione molto difficile, e il premier Erdogan, ricordiamolo, a livello interno si sta giocando una partita politica importantissima, perché i consensi dell'AKP, cioè del suo partito islamico moderato nel sud-est, in questo momento sono a picco, con logicamente dall'altra parte un'esplosione di consensi per il BDP, il partito curdo, perché nel frattempo, oltre alla guerriglia armata, si sta giocando anche una lotta politica veramente all'ultimo scontro tra il governo e la minoranza curda, che sta ovviamente alzando il prezzo. Il timore di molti è che se si dovesse venire a formare un'autonomia siriana curda che va a fare il palio con quella irachena, allora probabilmente anche nel sud-est del paese la lotta indipendentista potrebbe diventare ancora più accesa. Ecco, perché poi molto spesso dimentichiamo che tutti i riflessi di politica estera hanno comunque un contraltare sulla politica interna, tu appunto citavi giustamente i sondaggi. Qui la Turchia si sta giocando un ruolo all'interno della NATO, non è un caso che la Clinton sia appunto abbia fatto questi incontri in questo momento così delicato. Al tempo stesso Erdogan deve gestire un momento di crisi, deve gestire le diverse componenti all'interno del paese e in qualche modo sì, mostrare i muscoli all'esterno, ma anche continuare a farsi rispettare appunto all'interno. Marta, sfera di cristallo, che ruolo andrà a giocare nelle prossime settimane la Turchia? Hai giustamente accennato quella zona tampone che la Turchia chiede già da alcune settimane, insomma questi 20 chilometri di zona tampone anche in territorio siriano. Ogni tanto si evoca lo spettro di un intervento armato turco, ma insomma mi sembra una questione di fantapolitica, no? Dunque, la Turchia dovrà stare molto attenta nelle prossime settimane, soprattutto l'esecutivo islamico moderato che sta subendo veramente molte critiche sui giornali in questi giorni per come ha gestito la situazione siriana e veramente rischia di venire completamente compromessa anche la famosa politica neo-ottomana del buon vicinato con la quale la Turchia si stava affermando a livello regionale, perché in questo momento Ankara non ha problemi solo con Damasco, ma comincia ad avere problemi molto seri anche con Teheran, che noi sappiamo essere il maggior garante del regime di Assad insieme con la Russia in questo momento. Settimana scorsa si è verificata e c'è stata una visita praticamente a sorpresa molto importante da parte del ministro degli esteri siriano ad Ankara, che è stata preceduta da frasi molto dure del capo delle forze armate iraniane, scusate, il ministro degli esteri era quello iraniano, non siriano, sì. E che è stata preceduta dal capo delle forze armate iraniane, che ha accusato praticamente la Turchia di essere una delle cause, insieme al Qatar e all'Arabia Saudita, della corrente situazione in Siria, e che successivamente la crisi siriana potrebbe proprio venire esportata in Turchia. Quindi insomma parole molto forti che non lasciano presagire nulla di buono. Il premier Erdogan dal canto suo ha già detto che la Turchia potrà intervenire in Siria in maniera molto chirurgica, come fa di solito col nord Iraq se si dovesse verificare un concreto rischio sicurezza, ma in questo momento la partita è veramente molto delicata e Ankara dovrà veramente stare molto attenta a come giocarla, perché c'è il rischio di irritare Teheran. Grazie, allora Marta Ottaviani, per la tua analisi. Buona giornata, buon lavoro da Istanbul. A voi buona giornata. E adesso allora abbiamo il traffico e poi cambieremo decisamente pagina e andremo in Tunisia. Nessun luogo è lontano. (349) 238 6666, arrivano ancora messaggi dagli ascoltatori ancora sulla questione turca. Un'ascoltatrice da Milano chiede se esiste un legame, una sorta di fil rouge che possa spiegare diffusi focolai di insofferenza dietro le quinte, dice un unico regista, e chi sarebbe? Ma insomma, diciamo che quello che stanno facendo i curdi sicuramente stanno cavalcando la situazione siriana, da qui a ipotizzare una regia insomma piuttosto difficile, non me la sento proprio di tratteggiare questo scenario. Invece cambiamo proprio scenario, perché andiamo a Tunisi dove la primavera araba, che proprio da lì era partita, rischia di diventare un autunno, o almeno secondo le spinte, le forze più liberali, e c'è una partita a scacchi che si sta giocando fra il partito islamista Ennahda, che ha vinto le recenti elezioni, e fra un forte movimento liberale e femminista. E questa partita da scacchi si gioca su due parole: complementarietà e uguaglianza. Complementarité, dicevano, contre égalité, e si parla di complementarietà o uguaglianza dei sessi. Un progetto di articolo della futura costituzione dice che la donna sarebbe complementare all'uomo e appunto e quindi non più uguale, e questo sta scatenando, come immaginate, anche proteste e manifestazioni che vi sono già state a Tunisi nei giorni scorsi. Ce n'è una in via di organizzazione proprio quest'oggi. Cerchiamo di capirne meglio con Karima Mual, collaboratrice del Sole 24 Ore. Karima, buongiorno.

E poi ne accennavo anche nella prima parte della trasmissione, c'è questo allarme lanciato dalle autorità greche da Atene, dove ci si attendono 15.000 profughi in Grecia, quindi passaggio attraverso la Turchia, 15.000 profughi siriani potrebbero entrare appunto in Grecia, ed è per questo che anche nei giorni scorsi, le avevamo dato notizia in una delle precedenti puntate, si era rafforzato il meccanismo di sorveglianza sul fiume Evros da parte delle autorità greche, che temono quella che è stata chiamata un'invasione di profughi. E infine, sempre a Damasco, torniamo in Siria, perché si annuncia una fine di bombardamenti per rilasciare due giornalisti a nord di Damasco. Erano due giornalisti di Syria News, uno dei due canali della TV di Stato, che erano rimasti intrappolati nelle mani dei ribelli siriani, i quali chiedono a Damasco e al regime di porre fine ai bombardamenti per rilasciare i due giornalisti. 13:58 in questo esatto istante, titoli di coda. E quindi non mi resta che ringraziare anche quest'oggi Miriam Lucchetti e Massimo Brugnone in redazione, con me a confezionare il programma, Roberto Scaltritti alla parte tecnica, e ringraziare voi, gentili ascoltatori, per essere stati anche quest'oggi con noi. Noi ci risentiamo domani 6:30 per la replica, 13:15 come sempre, Nessun Luogo Sarà Lontano.